A cosa devo il piacere di questo dolore di prima mattina che mi colpisce alle spalle nel ventre sicuro della mia cucina. Nessun riguardo ai giornali che strillan le ultime beghe del mondo. Poco ti importan palazzi, la gente e la vita, annunciarsi al buongiorno. Io so, tu sai che dove sto tu stai. Tutto va bene, che dici lo sai. Mi tengo basso e non mi cerco guai. Tu sai, io so che dove andrai io andrò. Tremo la voce ai tuoi piedi così, maledicendomi di lunedì. A cosa devo il piacere di questo dolore di prima mattina che mi sorprende di schiena, strapparmi un sorriso come fosse una spina. Senza premure ne ossequi, fai tu e le mie ultime buone intenzioni. Ridi di me, di quel tizio col suo campionario di mancate occasioni. Io so, tu sai che dove sto tu stai. Sia benvenuta la tua compagnia dentro l'abbraccio di un'altra bugia. Tu sai, io so che dove andrai io andrò. Trema la voce, ti accorgi così, ti accorgi che il mondo è troppo per me. Io scendo qui. Thank you.